Italia in controluce. Seconda parte della puntata speciale di Italia in controluce, dedicata al teatro civile, a racconto sulla memoria italiana. Nella prima parte abbiamo incontrato Marco Paolini e Ascanio Celestini. Ora parliamo con Giulio Cavalli. L'Inate è un incidente da raccontare, prima di tutto perché ha 118 morti. Era il secondo incidente più grave nella storia dell'aviazione. E qui è passato come se fosse stato un raffreddore. È stato inghiottito dall'11 settembre, essendo avvenuto 3 giorni prima, perché Milano è una città che è bravissima a lavarsi e rimettersi in sesto facendo finta di niente. Milano, buongiorno. Delta India Echo Victor X-Ray sta scendendo adesso da quote 280 a 250. Sono le 6:39 minuti di lunedì 8 ottobre 2001, quando un Cessna Citation 525 ha partito da Colonia, annuncia il proprio arrivo al centro di controllo regionale di Linate, riceve l'autorizzazione a proseguire, seguendo la rotta su Saronno. Poi volti pagina, ma vai nella stessa direzione, cioè cominci a prendere in giro i mafiosi. Chi te l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare la gioia, il sorriso, la meraviglia e la passione con cui faccio il mio lavoro, e quindi continuerò a farlo, ovunque, comunque. Innanzitutto spero che queste mie righe, ovunque le si trova, che la raggiungano unitamente i suoi in ottima salute. Lo piccolo, le gemelle Kessler dei latitanti. Quando pensavo alla risata come arma, pensavo che i nemici migliori sono i mafiosi. Perché sono proprio loro che non hanno il senso dell'ironia come tutte le persone non dotate di intelligenza, perché ci sono stati rivenduti da trasmissioni criminali come dei geni del male e invece sono fondamentalmente degli imbecilli. E io ho pensato, D'Arlecchino, Zanni, assolutamente stupido come sono, ma che paese comico, un paese in cui un imbecille tiene sotto scacco 20 anni una politica di una nazione. E allora siamo andati in giro a raccontarlo. E tu leggevi Pizzini? Leggevamo i Pizzini di Bernardo Provenzano. In scena con me c'era un clown, la gente rideva tantissimo, anche in Sicilia, anche con Leone, Partinico. Però ad un certo punto gli dicevamo: bene, state ridendo di Provenzano. In quel momento stavano sgretolando l'onore. In realtà stavi distruggendo il potere mediatico di Provenzano nel suo mandamento, nella zona di suo controllo. Ma le minacce iniziano lì o dopo? Le minacce iniziano ancora prima che noi andiamo in scena, perché io comincio a lavorarne con Rosario Crocetta, tempi sindaco di Gela. Nasce un movimento culturale, se ci pensi, interessante, ancora prima del teatro, no? Molto spesso il bello del nostro lavoro di narratori è che il teatro è veramente la parte meno importante, l'andare in scena, no? È quell'affetto, quell'abbraccio, quella coscienza, quella responsabilità che quello che noi raccontiamo accende. E quindi da lì partono le prime minacce che arrivano stranamente a Lodi. Ecco, ma che idea ti sei fatto? Come mai da Gela a Lodi? Da Gela a Lodi è la prima domanda che mi sono fatto anch'io, perché poi per legittima difesa, sai, noi che l'inchiesta l'amiamo, vogliamo conoscere, vogliamo sapere. E ho scoperto, ti faccio un esempio, però secondo me è significativo, nella centrale termoelettrica di Tavazzano, a 500 metri in linea d'aria dal mio ufficio, dove mio padre ha speso 35 anni della sua vita, quegli stessi stiddari avevano preso un appalto da 4 miliardi. E allora voleva dire che stavamo andavamo a Gela per attaccarli, ma in realtà loro erano qui. Queste minacce diventano sempre più forti, a un certo punto ti danno la scorta. È un'anomalia, e quindi un paese che non è normale, un paese che dà la scorta ad un attore. Beh, è un paese che non è normale, perché altrimenti non ci sarebbero gli Arlecchini, no? Noi siamo il paese del diritto, ma soprattutto del rovescio. Era una battuta degli Zanni 500 anni fa, e quindi erano profetici. E non è un paese normale, però probabilmente io, sai, ho sulla questione scorta, ho innanzitutto una mia opinione proprio così di pancia, che è quella che oggi in Italia si sta rischiando veramente che la scorta diventi addirittura un simbolo, no, di spessore o di dignità. In Italia ci sono 670 persone sotto scorta e ci sono panettiere sotto scorta. A Palermo c'è un panettiere sotto scorta, ci sarebbe bisogno di meno teatranti civili e ci sarebbe bisogno di più panettieri civili, tranvieri civili. La scorta io credo che sia la dimostrazione di come il pretendere di dire la verità sia un fatto eccezionale e quindi individuabile anche da idioti come i mafiosi. Tu hai individuato la mafia non soltanto nel sud, ma come del resto da parte della storia, anche radicata nel nostro ricco nord. Ci sono dei timori, l'Expo di infiltrazioni da parte delle mafie. E su questo tu hai lavorato insieme al pianista Gaetano Liguori su un testo di Gianni Barbacetto sulla mafia e sulle mafie nel nord. Che cosa hai scoperto? Perché guarda, tutto è partito perché io odio le bugie. Mi piacciono piuttosto, posso tollerare una verità raccontata male, ma una bugia, anche se confezionata benissimo, non la sopporto. E quando sentivo dire arriverà la mafia all'Expo, mi è ritornato in mente Ambrosoli, mi è ritornato in mente Calvi, mi sono ritornato in mente Fidanzati, Liggio arrestato in via Ripamonti. Ho pensato, ma allora quella che cos'era, no? E questo nascondere la mafia sotto il tappeto, secondo me, veramente è un atteggiamento che a Corleone non si riesce più a fare. Non è tollerato da 20 anni Corleone. E allora dico, siccome io sono lombardo e siccome, come tu puoi immaginare, mi sono dovuto quasi giustificare del fatto di essere lombardo, attore, scortato, ho fatto uno spettacolo per legittima difesa. Non si accorge Milano, ma non si accorge davvero, di essere diventata la vera capitale dell'Andrangheta. Prima organizzavano sequestri di persona, poi sono passati al commercio di eroina, poi di cocaina e oggi invece sono diventati imprenditori. Abbiamo raccontato di una città che è stata assolutamente impermeabile. Ad Amosoli, ma anche a Raul Gardini, ai 103 sequestri di persona tra il 1974 e il 1983. Quindi una città e una regione di conseguenza in cui la mafia è una delle parti strutturali di alcuni centri di potere e di economia. E se siamo nella fase dell'alfabetizzazione, allora mi chiedo come potrebbe cominciare una lotta veramente intellettualmente onesta. Da nord a sud, a Taranto, dove da anni lavora Alessandro Langiu, attore e regista che si occupa di vicende ambientali. Le storie partono sempre, insomma, per quanto mi riguarda, dai luoghi, no? Io sono nato e cresciuto a Taranto fino all'età universitaria, dove per mia fortuna sono riuscito ad andare fuori dalla città. Per me raccontare di un luogo è legato all'elemento dell'esercinato, di averlo conosciuto intimamente, di esserne parte in qualche modo. E quanto riguarda gli spettacoli fatti sull'Ilva di Taranto e su Taranto in generale, raccontano un po' questa, no? Cioè, qual è la dimensione di chi vive proprio nella città all'ombra di queste ciminiere. Ad esempio, in 25.000 gradini di sabbia si racconta, seguendo tre ragazzi che giocano tra di loro sotto casa a pallone, loro proprio giocando, facendo una cosa quotidiana che si fa in tutte le parti del mondo, scoprono quello che c'è a fianco, ovviamente, a casa loro, che sono le ciminiere, che sono i cimiteri ricoperti di polvere rossa. Scoprono quindi quello che è la vita che poi segnerà le loro esistenze dopo, da adulti, diciamo, dopo l'adolescenza, ti ritrovi in questo mare inquinato. Quindi, cioè, per me il sotto casa, cioè quello che è sotto il tuo palazzo, diventa fondamentale come metafora di quello che è il nostro tempo, cioè nel senso il luogo che conosce e vivi è la metafora diventa la metafora del nostro disagio, ma anche metafora del nostro sogno. Insomma, questo è diciamo, l'humus sinteticamente poetico dei testi che riguardano, diciamo, Taranto in particolare. E poi hai realizzato anche spettacoli su Manfredonia. Peraltro su Manfredonia è accaduto anche qualcosa di importante negli ultimi giorni. Sì, Manfredonia, diciamo, è il continuum di questo percorso. Mi sono trovato lì, ovviamente per lavoro, c'era un piccolo festival di Lega Ambiente, questi festival che ci sono in Italia si chiamano Festa Ambiente. E lì ho conosciuto la storia di Nicola Lovecchio, che è un operaio di Manfredonia, che ha tirato su, diciamo, le condizioni necessarie insieme ad un oncologo, Maurizio Portaludi, per avviare il processo contro l'Enichem di Manfredonia, che però era in parte in territorio di Monte Sant'Angelo. Insomma, Nicola Lovecchio è un operaio che nel 94 scopre di essere malato, però, e quindi fa tutte le necessarie cure, interventi, però dopo la cura lui decide di deve per forza fare i controlli e lì scopre di essere ammalato da prima del tempo in cui è stato diagnosticato nel 94, cioè da 3 anni prima del 91. Cioè, la storia di Lovecchio è un po' quello che si sente tanto ripetere, cioè drammaticamente, cioè se non muori in fabbrica, se non ti ammali durante in fabbrica, sicuramente nella pensione tu avrai un tumore da curare. L'enica di Manfredonia, l'accusato non sono le diossine come per Taranto, ma è l'arsenico, in particolare a causa di un'esplosione che avvenne nel 76, ma che insomma gli effetti della lavorazione dell'arsenico erano costanti nel reparto di Lovecchio, che era l'insacco, e poi la polvere di urea, che era quest'altro elemento altamente tossico che poi è stata bandita la produzione. Insomma, la storia di Lovecchio è metafora dell'operaio, come abbiamo avuto a Porto Marghera negli stessi anni il Bortolozzo, di quella che è la consapevolezza di un operaio, della scoperta di un operaio, di quello che è stato in maniera ignara spinto a fare, è la sua ricerca di giustizia e di verità. Sono storie che finiscono bene o finiscono male? Questa è la grande domanda. C'è grande sofferenza in queste storie. Cioè, finiscono con una giustizia oppure con un'ingiustizia? Per quanto riguarda Manfredonia, noi abbiamo avuto la prima sentenza di primo grado nel 2008 che ha dato assoluzione a tutti i dirigenti, perché il fatto non sussiste, cioè non c'è colpa da parte dei dirigenti per quanto riguarda la tossicità, quindi tutti assolti, nessun colpevole. Lovecchio è impazzito, così. Però Lovecchio lavorava in un reparto dove di 40 ne restano vivi 12, tutti gli altri sono morti al di sotto dei 50 anni. Molti hanno accettato i soldi di indennizzo uscendo da quella sentenza, tra i quali il comune di Manfredonia ha accettato 300.000 euro prima della sentenza di primo grado. La famiglia Lovecchio non ha accettato alcun tipo di compenso ed è ricorso in appello in questi giorni e ha fatto l'istanza di richiesta del processo d'appello. Quelle sono storie drammatiche, storie che finiscono purtroppo male, se vogliamo, perché le persone muoiono, Lovecchio è scomparso, come è scomparso Caretto a Brindisi, se questi operai simbolo. Però cosa rimane? Cosa rimane la loro lezione? Rimane la forza che loro hanno trasmesso innanzitutto alle loro famiglie, alla comunità ristretta, cioè che è quella di chiedere giustizia. Se si è convinti della giustizia e di quella che è la verità, bisogna lottare e combattere per cercare di ottenerla. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, dedicata al teatro civile e alla memoria italiana. L'archivio delle puntate lo trovate sul nostro sito radio24.it. Poi il blog di questo programma lo trovate sempre sul sito radio24.it. Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, la mail controluce@radio24.it, in Controluce su Twitter. La mia voce torna domani puntuale alle 6:30 su Radio 24.